dico due cose sulle condizioni di amabilità che riguardano praticamente tutti gli esseri umani. Allora, nella bilancia strutturale le condizioni di amabilità si collocano vicino alla parte depressa. Infatti la parte depressa si autosvaluta e dice: io non valgo, non vado a sufficienza, quindi devo fare qualcosa per farmi amare. Le condizioni di amabilità si inseriscono in questa visione del mondo. Per la parte depressa, quindi le condizioni di amabilità diventano i veri e propri doveri, cose che deve fare perché siccome vuol raggiungere l'essere amato, e quindi deve farle. Allora, per esempio, una persona che come condizione di amabilità può avere essere efficiente, fare le cose, o ottenere riconoscimento per le cose che fa. Allora, queste diventano dei doveri. Per la parte depressa deve ottenere quelle cose lì, se no non si sente bene. Adesso andiamo dall'altra parte della bilancia strutturale, ci troviamo la struttura narcisistica, la configurazione narcisistica che la pensa esattamente al contrario. Cioè, la struttura narcisistica, il nucleo della struttura narcisistica, Puoi evitare di fare tante sì, volte colonna chiara per... è l'amore per sé. Abbiamo detto altre volte che la struttura depressiva vuole amore e appartenenza. La struttura narcisistica che cosa vuole? Identità. Cioè essere chi si è. E non posso essere chi sono se devo soddisfare a condizioni di amabilità, perché sono continuamente appunto condizionato, non ho la via libera, devo fare scelte che non sono le mie. Allora, la parte narcisistica come reagisce ai doveri imposti dalla parte depressa? Con rabbia. Quindi ci troviamo di fronte a una continua opposizione tra gli impulsi della parte depressa che dice fai le cose, la parte narcisistica che ti dice non le fare assolutamente, perché sono due bisogni completamente diversi. Appartenenza e amore da una parte, identità e sviluppo di sé dall'altra. Ci troviamo quindi di fronte a due vettori, contrapposizione, quindi un conflitto insanabile, un doppio legame. Se io faccio le cose per dovere, sono insoddisfatto. Se non le faccio, sono insoddisfatto lo stesso perché non ho adempiuto alle condizioni di amabilità che mi fanno credere di poter essere amato. Per capire bene questo modello bisogna vedere anche le altre parti implicate. Innanzitutto l'io governo. Io governo che non fa nulla per liberare il paese da questa tirannia dei doveri, è chiaro che viene visto come alleato della parte depressa. Quindi la parte narcisistica ce l'ha con la parte depressa, quindi c'è una rabbia contro una parte di sé, quindi contro se stesso. Questo in generale, proprio una struttura di fondo, per cui la persona non può essere contenta perché ha comunque una rabbia strutturale, così come all'epoca della lotta di classe i proletari ce l'avevano con i capitalisti e i proletari se non faceva le cose, quindi una lotta di classe. Inoltre il governo viene visto come alleato del giudice, cioè di colui che mantiene il senso di autosvalutazione, giudica, critica e così via. Conseguentemente, la lotta di classe è tra la parte narcisistica che tende a vedere le colpe fuori e la parte depressa che tende a vedere le colpe dentro. A questo livello soluzione non ce n'è, perché l'io governo non è in grado di gestire questo conflitto, non esegue quelli che sono i suoi compiti come governo. E adesso ti dico chiaro quali sono i compiti come governo. Il governo è come un cocchiere. Il cocchiere però non sa bene qual è la strada, gliela deve dire il padrone del cocchio che sale su, prendi un taxista, oggi non ci sono i cocchi ma ci sono i taxi, sali sul taxi, mica il taxista che ti porta dove devi andare, glielo devi dire te, cioè è il padrone. Allora il padrone non è l'io governo, il padrone della persona, cioè colui che deve guidare, l'anima, perché l'anima è l'intelligenza del cuore, poi ti daremo da leggere quel libro straordinario. È l'intelligenza del cuore che ha la visione di dove devi andare tu per realizzare chi sei. Dio governo è un esecutore. Il governo non è colui che costruisce il paese, è la Costituzione che dice chi sei. Il governo semplicemente con le sue politiche di sviluppare le potenzialità del paese. Quindi è un servitore il governo. Se il servitore non sa fare il suo mestiere, cosa succede? Che al suo posto agiscono parti ancora più piccole, cioè la parte depressa e la parte narcisista. La parte depressa, mettiamo che è piccola, 3-6 anni, la parte narcisista ne è 10, vediamo. E quindi la personalità è guidata da due strutture che non hanno più di 10 anni, dai 3, 6, 8, 10 anni. In questo senso non c'è soluzione. La soluzione nasce dal collegare con l'anima, collegarsi con l'anima, cioè che l'anima finalmente possa essere ascoltata. Ma non su cose generiche, su che cos'è l'universo, chi è Dio, cose di questo tipo, su cose specifiche anche, no? Quindi avere la comprensione della struttura e l'anima allora potrà dire, senti, le condizioni di amabilità sono prive di ogni senso, perché tu sei già perfetta così, anche in questo momento della tua vita sei già perfetta, perché dato il cammino che hai fatto non potresti che essere così. Ti faccio un esempio concreto. Quando un fiore pianta un seme, in quel momento il seme è perfetto, poi cresce e viene fuori una gemma, piantina, una piantina. A quel punto la piantina è perfetta, poi cresce ancora di più ed è in grado di fare le foglie, ed è perfetta a quel momento. Poi fa anche il fiore ed è perfetta a quel momento. Lo stesso siamo noi come esseri umani nella nostra evoluzione. A seconda del momento siamo perfetti così, non c'è niente altro da dire, quindi non ci esistono colpe, non c'è niente. È chiaro che così come una pianta per svilupparsi deve produrre poi fiori e seminare, così un uomo per svilupparsi deve sviluppare che cosa? Il potenziale che c'è nell'anima, ma per questo bisogna che sviluppi un governo che sa governare. E così via. Allora, non c'è nessuna tragedia, è tutto piuttosto semplice se ci liberiamo da che cosa? È qui il problema. Il problema nasce dal fatto che non siamo nati, non siamo liberi nemmeno alla nascita, siamo già condizionati, già subiamo una serie di condizionamenti che potremmo definire in tre cerchi. Il karma collettivo, cioè tutte l'insieme delle azioni scorrette che gli uomini hanno fatto e hanno fatto sì che, per esempio, le condizioni di amabilità continuino a essere viste come normali, anziché come aberrazioni folli. Poi abbiamo il karma familiare. Il karma familiare in cui si è imparato a educare non secondo i principi dell'anima, ma secondo i principi dell'ego. Ecco. Allora nella vostra famiglia ci sarà, avrete ricevuto determinate cose, chi più chi meno, che hanno fatto sì che voi vedete il mondo in una certa maniera. Poi c'è il karma individuale. Allora, tutta questa opposizione, questi contrasti, così via, hanno creato intorno a te, cosa? Hanno creato un campo dismorfico, perché se tu fai una cosa, ma se la fai controvoglia, oppure non la fai, generi intorno a te, generi un campo depressivo, di insoddisfazione, e questo produce semi di infelicità. Quindi il karma da cosa è prodotto, se volessimo dire in termini semplicissimi? Sono semi di infelicità. Di infelicità. Che può sparare, che alcune persone li spargono soprattutto al loro interno e altri li spargono soprattutto al loro esterno. Ma sempre semi di infelicità sono e quindi tutti collaboriamo al karma nostro e dell'umanità. Quando arriva un trigger da fuori, una richiesta, ecco questa è l'intuizione che abbiamo avuto stamattina, trigger da fuori, questo trigger non è che arriva qua la personalità, libero, deve passa attraverso questi filtri. E arriva alla struttura, per esempio, della supersonalità, quindi è karma collettivo, karma familiare, karma individuale. Quindi noi non vediamo mai la realtà, ma la vediamo filtrata da queste strutture finché non ce ne siamo liberati. Quando ci arriva questo trigger, quindi arriva a mettere la parte depressa, una richiesta, questa parte depressa sentirà delle cose e sentirà delle determinate emozioni. Poi si metterà a compiere questa cosa o non la compierà, in ogni caso. Ecco cosa succede, no? Il trigger può essere esterno, va bene, una richiesta fatta da fuori, ma può essere anche interno, cioè il trigger parte dal mio governo e ci va un po' questo, la stessa cosa. Passa attraverso questo, viene letto in quel modo lì e riattiva questo modello, questa struttura che abbiamo visto, è un doppio legame. Dai doppi legami non si esce, non c'è niente da fare, a meno che non sia in grado di metacomunicare, cioè di vederli da una posizione meta e poi commentarli, metacomunicare su questi, e quindi è l'io governo ispirato dall'anima che deve metacomunicare su quello che succede all'interno. In questo modo parlerà chi? Parla tutte le sue parti interne, tutte, prenderà responsabilità nei confronti della parte depressa che ha lasciato al sgradevole compito di prendersi doveri, alla parte narcisista che si è presa lo sgradevole compito di produrre tutta questa rabbia, farsi del male e generare equivalenti aggressivi e così via. Si deve prendere responsabilità nei confronti del giudice, perché anche il giudice ha un aspetto animico. Il giudice in senso sano non è altro che il discernimento, cioè la capacità di distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, ciò che è, così via. La parte depressa anche c'è un'anima, che è quella che ci porta ad amarci reciprocamente, quindi l'empatia, la compassione e così via, trovano la loro radice qui. Qui trova la radice la propria autotutela, la difesa, l'identità, e qui trova il discernimento. Se l'io governo si prende la responsabilità di tutte queste cose e svolge lui queste funzioni, a questi punti non c'ha più bisogno, non si attiverà più questa danza. Ricordiamoci che questa danza tra la parte depressa e la parte narcisista è una danza di potere. Eccolo qua. Per cui questa lotta non finisce. Ecco, questo è...